Letture di Radio 24. Da oltre 20 anni Giampaolo Pansa offre una visione diversa della Resistenza, che senza metterne in discussione i valori, ne evidenzia i lati più oscuri, quelli che molti vorrebbero cancellare, tacciando per revisionista chiunque tenti di portarli alla luce. Perché se è vero che non si può negare l'eroismo dei partigiani, è anche vero che non c'è nulla di eroico nello stuprare una ragazzina di 13 anni, nemmeno quando la ragazza è figlia di un segretario del fascio, come racconta Pansa in uno degli episodi più toccanti tra quelli raccolti nel suo ultimo libro. Nell'agosto 1944 a Galliate viveva Giuseppe Ugazio, 43 anni, segretario del fascio repubblicano di quel comune. La sera di lunedì 28 agosto, alla fine di una fosa giornata estiva, se ne stava seduto con un paio di amici a un tavolo della trattoria San Carlo, parlando della guerra e dei bombardamenti aerei sul ponte del Ticino. Ugazio viveva con due figlie. Cornelia, 21 anni, studiava medicina all'Università di Torino e si era recata da una signora che aveva bisogno di un'iniezione. La più piccola, Mirella, detta Mirka, 13 anni, stava girando in bicicletta con le amiche per le strade di Galliate. Verso le 9 di sera si presenta alla trattoria una pattuglia di militi della Repubblica e invitano Ugazio a seguirli insieme alle figlie perché si teme un attacco dei ribelli. Il segretario del fascio e le due ragazze salgono sull'automobile dei militi e soltanto allora scoprono di essere caduti nelle mani di partigiani garibaldini travestiti da fascisti. Li conducono attraverso i campi sino a una cascina isolata, la Negrina. Qui li aspettano una ventina di ribelli che hanno già occupato il cascinale. I partigiani mangiano e bevono sotto lo sguardo atterrito dei tre ostaggi. Il padre di Cornelia e Mirka spera ancora di salvare almeno le figlie, poiché tra i ribelli ha riconosciuto un giovane di Galliate. Poi si rende conto di non avere via di scampo. Viene spinto in un boschetto vicino al podere, legato a un albero e torturato sotto gli occhi delle ragazze. La sua vita sta per concludersi. I partigiani lo finiscono spaccandogli il cranio con il calcio dei moschetti. Subito dopo tocca alle figlie. Sia Cornelia che la piccola Mirka sono stuprate. I ribelli se le passano di mano per l'intera notte. È quasi l'alba del 29 agosto quando le ragazze non danno più segni di vita. La banda trascina i loro corpi nel boschetto, accanto al cadavere del padre. Gli stupratori scavano una fossa poco profonda, una trentina di centimetri, non di più. Al contatto con il freddo del terreno, Cornelia e Mirka si riprendono. Allora i partigiani fracassano la testa della ragazza più grande con i moschetti e soffocano Mirka, schiacciandole il collo con uno scarpone. Poi se ne vanno poco dopo l'alba e riprendono a combattere per la rivoluzione comunista. Avete ascoltato la lettura di alcune pagine dal libro di Giampaolo Pansa, Bella Ciao, Controstoria della Resistenza. Rizzoli, 432 pagine, €19,90. Letture di Radio 24. Sono passati 70 anni dall'attentato di Via Rasella, durante il quale morirono, oltre a 33 soldati delle truppe tedesche, anche due civili italiani, uno dei quali era un bambino di 13 anni. Della strage di Via Rasella, che portò alla reazione dei tedeschi con la strage delle fosse ardeatine, si sa che fu ideato da Giorgio Amendola e che ad accendere la miccia fu il partigiano Rosario Bentivegna, ma le vere ragioni dell'attentato rimangono ancora oscure. Da un confronto tra i memoriali scritti successivamente da Pietro Secchia, Luigi Longo e Giorgio Amendola, sembrerebbe, scrive Giampaolo Pellizzaro nella prima parte di un'inchiesta pubblicata sul mensile Storia in Rete, che la bomba di Via Rasella fosse il risultato di uno scontro di potere tra due gruppi del Partito Comunista d'Italia, quello di Roma e quello di Milano. Nel suo libro Il PC e la guerra di liberazione, pubblicato nel 1973, Secchia scrive: l'insufficiente conoscenza ha facilitato l'opera di coloro che hanno interesse a deformare la Resistenza, presentandola come un grande movimento al quale avrebbe partecipato tutto il popolo italiano, avrebbero partecipato tutti i partiti democratici e i comunisti non più degli altri, anzi, secondo taluni, come una sorta di retroguardia. Per contro, altri sono stati spinti a fare della resistenza una specie di epopea mitologica e miracolosa, che avrebbe avuto la capacità di liberare l'Italia e di attuare tutto quello che le avanguardie più coscienti desideravano o avrebbero desiderato. Sino a dimenticare che in Italia i tedeschi furono battuti dalle divisioni anglo-americane, che alla guerra di liberazione i partigiani portarono un notevole e valido contributo, ma non furono la forza decisiva. Tant'è che nell'Italia occupata dai tedeschi, e anche al nord, l'insurrezione poté compiersi non più di 48 ore prima che vi giungessero le truppe anglo-americane. Occorre pertanto partire da che cosa è stata la resistenza, non con ragionamenti più o meno fantastici, ma con dimostrazioni la cui validità sia provata dai documenti, dalle testimonianze, dai fatti, dalle azioni, da quanto allora i combattenti dissero e fecero. Fatte le dovute premesse e puntualizzazioni, Secchia lascia il campo ai documenti, alle testimonianze, ai fatti e alle azioni degli allora protagonisti della resistenza. Ma cosa c'è di tanto inedito, imbarazzante, inconfessabile nell'ultimo libro di Secchia, nel suo testamento politico come dirigente comunista, come ex comandante partigiano, combattente per la libertà? La risposta, seppur camuffata e minimalista, la fornisce lo stesso Giorgio Amendola nell'introduzione del suo volume Lettere a Milano. Ogni giorno salta fuori qualcosa di nuovo. Adesso ho ritrovato nel libro di Secchia una mia lettera da Torino, con risposta di Secchia, e un rapporto da Torino che non conoscevo. In verità, le novità sono ben altre rispetto alla lettera di Torino, ma ciò che desta curiosità è il fatto, fino a oggi inesplorato e sconosciuto, che dopo l'uscita del libro di Secchia, Amendola è così preoccupato che sente l'obbligo di ribattere immediatamente, dando alle stampe in fretta e furia il suo vero e proprio contromemoriale, Lettere a Milano 1939-45, pubblicato dagli editori riuniti sempre nel 73. Ma perché tutta questa urgenza, tutta questa premura? Perché tutta questa impellenza, questo nervosismo su fatti e vicende ormai risalenti a 30 anni prima? Il tutto può essere riassunto in uno scambio di lettere e rapporti tra il centro di Milano e il centro di Roma del Partito Comunista d'Italia, in un arco di tempo che va da novembre 1943 a gennaio 1944. Quello fu un periodo molto delicato, oscuro, in cui si consumò un durissimo scontro fra il gruppo milanese e quello romano nelle settimane precedenti il ritorno di Togliatti in Italia da Mosca. Quei documenti, resi noti e pubblicati per la prima volta da Secchia poco prima della sua morte, aprirono una crepa nel muro di omertà che per 3 decenni aveva protetto le inconfessabili verità sul gruppo dirigente comunista romano durante i 9 mesi di occupazione della capitale. I romani sono accusati dai milanesi di un'attività che si riduce a una serie di riunioni, il tutto un po' parlamentare. E infatti chiede con insistenza Secchia a Scoccimarro, rappresentante del Partito Comunista nel Comitato di Liberazione Nazionale Centrale, «Dove sono le vostre azioni militari? Al massimo ci date la notizia di diffusione di manifestini, ma questo non è attività partigiana». Da Roma Scoccimarro ribatte, critica i milanesi di praticismo e ristrettezza politica. Secchia protesta. «E allora?» Dateci il vostro contributo, il vostro aiuto. Invece i romani, più che dare aiuto, lo chiedono spesso ai milanesi. Chiedono soldi, documenti falsi, borse con il doppio fondo. Secchia provvede, ma a un certo punto non ne può più. Sarebbe bene, li ammonisce, che vi provvedeste anche voi di un ufficio tecnico, poiché intanto gli inglesi tardano sempre ad arrivare e poi non è detto che quando saranno arrivati non ne avrete più bisogno. Avete ascoltato alcuni passaggi dell'articolo di Giampaolo Pellizzaro, Ombre rosse su Via Rasella, dal numero di aprile della rivista Storia in Rete. Il brutto episodio dell'agente di polizia che ha calpestato una manifestante durante il corteo organizzato a Roma lo scorso 12 aprile dal Movimento per il diritto alla casa ha finito per mettere in secondo piano la gravità delle violenze commesse dalle frange più estreme degli antagonisti, soprattutto i Black Bloc e i Blue Bloc. Un giornalista del Tempo è riuscito ad infiltrarsi tra di loro durante i preparativi per la manifestazione e a scoprire come avevano pianificato l'ennesimo episodio di guerriglia urbana. Il materiale, come sono definite le armi, è nascosto un po' ovunque, anche nella biancheria intima. Black Bloc e Blue Bloc, un nuovo gruppo, sono ancora mimetizzati quando alle 14:30 si muove il corteo da Porta Pia. Ma il piano è già noto. Di mano in mano gira la mappa dell'obiettivo. Lo scontro con le forze dell'ordine al Ministero dello Sviluppo Economico in via del Tritone. Il Tempo è riuscito a penetrare la fitta cortina che tiene celati i gruppi di facinorosi. Abbiamo parlato con loro, pianificato gli attacchi, osservato le armi e guardato i loro volti. Tutti molto giovani, tranne quelli che potrebbero essere definiti i capi. Ciò che emerge è l'esistenza di svariati piccoli gruppi di facinorosi, giunti da diverse regioni. Abbiamo distinto piemontesi, lombardi, veneti, campani e marchigiani. Sono autonomi, ma operano in modo sinergico e soprattutto sincronizzato. Nulla è lasciato al caso e non mancano i battibecchi sulla migliore strategia di guerriglia da adottare per raggiungere l'obiettivo finale: attaccare guardia di finanza, carabinieri e polizia. Metterli alle strette con lancio di pietre, bottiglie di vetro e violente bombe carta artigianali, cercando una reazione che crei il panico nella massa di 20.000 manifestanti. Una guerriglia pianificata in ogni sfumatura, come conferma anche l'analisi che fa Giulio Vasaturo, criminologo della Sapienza e studioso dei fenomeni di lotta. Secondo la sua interpretazione, si tratta di un'azione violenta, repentina, mirata, sempre accuratamente pianificata, che rivela la solita matrice ideologica e la capacità organizzativa di queste formazioni estremistiche. I protagonisti della guerriglia urbana nel centro di Roma si sono mimetizzati nel corteo, non solo dal punto di vista logistico e operativo, ma anche sotto il profilo propriamente politico. Poi un affondo lo fa anche sugli organizzatori della manifestazione. Queste frange agiscono, come è evidente, con la tolleranza, se non addirittura con la compiacenza, di una parte essenziale degli organizzatori pacifici del corteo, che non adottano alcuno strumento per prevenire questi attacchi che sono ampiamente preannunciati. Difatti, le vie di Roma si sono trasformate nella scacchiera sulla quale hanno mosso le proprie pedine tanti diversi nuclei operativi di facinorosi, perché verso la fine del corteo, fra anziani, studenti e famiglie con bambini, si muovevano diversi gruppi pronti alla guerriglia. Formano tanti cordoni ben saldi, camminando l'uno stretto all'altro. Si guardano attorno in modo schivo e scacciano le persone sospette, quelle che potrebbero sembrare le guardie. Il materiale, come definiscono le armi per la guerriglia, non è soltanto nascosto negli zaini, ma anche nei pantaloni, nelle felpe e addirittura nella biancheria intima. La partenza da Porta Pia è relativamente tranquilla e si distinguono dei ragazzi che mettono in bottigliette d'acqua una sostanza biancastra polverosa. È un farmaco, ci spiega un Black Bloc, che diluito con l'acqua e messo sugli occhi annulla gli effetti del CS, gas urticante usato dalle forze dell'ordine. Fino a Piazza Fiume il corteo procede senza intoppi. Si inneggiano slogan contro il piano casa e il Job Act del governo di Matteo Renzi. Ma è in via 20 Settembre, nelle immediate vicinanze del Ministero dell'Economia, che avviene la metamorfosi. I gruppetti cominciano a cambiarsi i vestiti, indossano maglie nere e caschi. I manganelli sono estratti dalle borse assieme a scudi rudimentali. E quelli che sembrano essere i capi si riuniscono, discutono. «Quanti siete voi?» dice un uomo dall'accento napoletano. «Noi 40», risponde un giovane veneto. «I marchigiani sono tanti e sono arrabbiati», conclude. Interviene un piemontese. «Noi siamo carichi di bombe carta e ci stiamo muovendo sul lato destro come ci avete detto di fare. Ci accentriamo tutti a Piazza Barberini e saliamo in testa per via Veneto. Mi hanno segnalato che davanti al Ministero dello Sviluppo Economico sta il blocco degli sbirri». Così i vari gruppi si muovono come fossero su un campo di battaglia. L'appuntamento all'inizio di via Veneto è rispettato. Tutti sono pronti. Tutti sono armati. La devastazione può partire. Avete ascoltato la lettura di alcuni passaggi dall'articolo di Ivan Cimarusti, Io infiltrato tra i Blue Bloc, pronti a sfasciare tutto, da Il Tempo del 13 aprile.